Una volta mi dissero: sii sereno, sii te stesso, lotta contro tutti, non perder tempo, fallo adesso. E se concedo passi è perché poi congelo sguardi. Dai azione al congegno che ti concedo. Mi pari stranito mentre affino l'ingegno. Custodisco in vari vari di vari e rimari. Corri ai ripari, se no ci rimani. Faccio straordinari, è meglio che ti dichiari che non mi piaci. Ti rigeni superiore, eh? Ma in fondo tu non ti riveli il migliore dei miei rivali. Terrapieni ma ripieghi il rumore dei miei stivali. Te lameni ma ti pieghi al vigore dei miei pugnali. Ti ritieni superiore, eh? Ma in fondo tu non ti riveli il migliore dei miei rivali. Non ti riveli il migliore dei miei rivali. Non ti riveli il migliore dei miei rivali. Ti ritieni superiore, eh? Ma in fondo tu non ti riveli il migliore dei miei rivali, eh? Non ti riveli il migliore dei miei rivali, eh? Non ti riveli il migliore dei miei rivali. Capo di me stesso come i Colle del Fomento. Se prometto mantengo come prima e tormento. Io non prendo l'hip hop come fosse un passatempo, ma come un credo, una fede che merita rispetto. Certo, non mi aspetto che ti sia chiaro il concetto. Rime spesse come pallottole d'argento. Miro al teschio, sparo al centro. Cerco pace nel tormento che mi sta uccidendo. Non perdo tempo, stendo MC su ogni sample. Duro come un pugno di cemento, dritto al mento. Ti stritolo in silenzio mentre stai dormendo. Mortale veleno, immortale se il micro lo tengo stretto. Freddo dentro, a compromessi non scendo. Non mi vendo, piuttosto vivo nell'inferno. Una volta mi dissero, sei zero, smetti adesso. Non mi sono arreso, adesso spezzo teste con un verso. Mi tieni superiore, eh? Ma in fondo tu non ti riveli il migliore dei miei rivali, eh? Non ti riveli il migliore dei miei rivali, eh? Non ti riveli il migliore dei miei rivali. Ti ritieni superiore, eh? Ma in fondo tu non ti riveli il migliore dei miei rivali, eh? Non ti riveli il migliore dei miei rivali, eh? Non ti riveli il migliore dei miei rivali. Ci vediamo ai confini del mondo, succhia cazzi. Vi vedo in arte abile al mixtape. Cheer.